comune di Riccardo Poli, Alessandro Longoni e Beppe Salmetti. Oggi vorrei iniziare questa trasmissione scardinando il luogo comune, che noi parliamo solo di luoghi comuni. Ah, mi piace. Ovvero, oggi faremo un piccolo esperimento su un paradosso. Ok, quindi quelle classiche frasi che ti incastrano il cervello, cerchi di pensarci, ma gli ingranaggi del tuo cervello slittano costantemente. Il paradosso, il più famoso è il paradosso di Zenone, quello con la tartaruga. Sì, non so se scusami, spiegaci. Allora, c'è uno spazio X, ok? La tartaruga per arrivare da 0 a X deve passare dalla metà di questo spazio, ma per arrivare alla metà deve arrivare alla metà della metà, per arrivare alla metà della metà, alla metà della metà, insomma così all'infinito. Quindi dice Zenone, non arriva mai. Non arriverà mai, che è un paradosso, perché insomma ci arriva piano la tartaruga, ma ci arriva alla X. E il paradosso di oggi di cui voglio parlarvi, e ne parleremo in trasmissione, è nato prima l'uovo o la gallina? Forse uno dei più famosi paradossi possibili. Esatto. Tra l'altro io voglio fare subito il saccentello. Sapete che mi piace fare il saccentello. Il maestro Longoni. E quindi vi rispondo già subito, è nato prima l'uovo, così. Secondo la scienza è nato prima allora l'uovo. Allora io rispondo subito, è nato prima il dinosauro. Ma no, ma cosa c'è? È nato prima l'uovo o la gallina? Il dinosauro. No, in realtà è nato, l'uovo è nato ancora prima del dinosauro, credo. E invece no. E allora, poi ti spiegherò perché. Questo paradosso in realtà nasconde dietro. Quando ci siamo trovati a parlarne, subito abbiamo detto, vabbè, ma cosa ci vuole a parlare di questo luogo comune, il paradosso? Poi ragionando ci abbiamo pensato, no, ma dietro c'è proprio il conflitto tra creazionisti, cioè quelli che credono che è arrivato Dio e ha creato la gallina e tutti gli animali, così. La gallina è già pronta. Già pronta, come l'uovo, l'uomo. Già maturata. E l'altra squadra? E l'altra squadra sono gli evoluzionisti, cioè no, c'è prima l'uovo che si evolve, che si schiude, c'è il DNA, bla bla bla, e tutte quelle cose lì. Darwin, avete presente quella massa di conoscenza che abbiamo sviluppato? Come ripartito su quella massa di ignoranti, quella piccola informazione che ci hanno dato negli ultimi 100 anni. La cosa bella è che questo paradosso risale già dall'antichità a scritture molto importanti. La Sacra Scrittura per prima appunto dice: le acque brulicano di esseri viventi, uccelli volino sopra la terra davanti al firmamento del cielo. Quindi per la Sacra Scrittura la risposta è semplice: è nata prima la gallina. Okay. Che però volava, quindi davanti al firmamento, grandi galline volanti. Scusate, ma bellissimo. Le galline poi non volano, possiamo dirlo. Ma questo è quello che dici tu. Volano, possono volare, piccoli pezzi, ma possono volare. Poi persino Aristotele parlò di questo paradosso. Ma poi perché ne parlò? Perché per spiegare l'atto e la potenza, che sono i suoi due grandi capisaldi nella filosofia aristotelica, dice che l'uovo è la potenza e la gallina è l'atto. Cioè sostanzialmente l'uovo è una gallina in potenza, no? Cioè diventerà una gallina. Quindi per Aristotele viene prima la gallina. Tra l'altro Aristotele, qua siamo finiti sulla filosofia e stiamo usando galline e uova. Sì. Tra l'altro galline e uova vengono utilizzate in tantissimi modi di dire, no? Sì. Tipo non so, cercare il pelo nell'uovo, sì, non si può fare l'uovo di Columbro, famosissimo. No. Columbro. Scoprire l'uovo di Columbro. Tra l'altro era Columbro che era fissato con gli alieni. Con gli alieni. Giusto, sì, corretto. Sì, ma è ancora fissato con gli alieni? Penso di sì. E tutto torna in questa puntata. Non giudico nessuno, perché anch'io quando ero ragazzino ero fissato con gli alieni. Poi sei cresciuto e hai scoperto i porno, hai capito che c'era dell'altra attenzione su quello. Ma i porno alieni esistono? Non lo so. Sai che sarebbe una nuova categoria da coniare? Potremmo chiedere ai nostri ascoltatori se hanno mai visto un porno alieno, spedendoci un WhatsApp. No, ci spediscano direttamente un porno alieno. Scusa, 340-8303-758. Così ho dato anche il numero del nostro telefono. La scienza, arriviamo alla scienza che dipana il punto sul paradosso. La scienza risolve, questo è il luogo comune. La scienza risolve, sì. Allora, nell'evoluzione le uova in generale esistevano prima delle galline che facevano uova di gallina. È corretto. Okay. Ok. Sì. I fossili più antichi di uova ritrovati risalgono a circa 190 milioni di anni fa. Ma questo è quello che dici tu. No, è questo me quello me che dice la scienza. La terra più recente. No. Beh, ma si sa che Wikipedia è controllato dai poteri forti. Non è Wikipedia, è e il poi post. Se posso, come si dice lì, se posso riscrivere anche una voce vuol dire che non è vera. No. Comunque, l'Archaeopteryx, penso si dica così. Che è la bestia che usciva da quest'uovo. Esatto, uno degli uccelli più primitivi, spesso indicato come l'anello di congiunzione tra gli uccelli e i dinosauri piumati, visse nel periodo giurassico, quindi circa 150 milioni di anni fa. Le prime galline non sono venute da uova deposte da galline, ma da uova deposte da altri animali che potremmo chiamare delle quasi galline. Le quasi galline. Le famose quasi galline. Le quasi galline a un certo punto hanno fatto delle uova che contenevano il DNA di una gallina e da cui nacquero le prime vere galline. Le quasi galline. Comunque, parlare di uova, questa mattina volevo fare un grande esperimento, una grande provocazione, non ce l'ho fatta perché si è già schiuso. Ho portato qui in studio un uovo da cui sarebbe dovuto nascere un dinosauro tipo nell'arco di un'ora. No. Solo che l'ho messo e è diventato già un dinosauro. Ascolta, Beppe, te l'ho già detto. Cosa? Se tu leggi i forum delle mamme in cui ti spiegano come e quando si schiude un uovo, sbagliano. No, e allora hanno scritto che in un'ora si sarebbe schiuso. Ma ti pare che un bambino nel 2020 aspetti un'ora per avere un gioco? Ma che ne so. Comunque adesso proviamo a togliere da sta acqua. Dai, mentre intanto tu togli, sentiamo Luis C.K. che ha parlato anche lui di uova e galline. It's a thing people like to ask, like, what comes first, the chicken or the egg? Of course it's the egg, because you can't just make a chicken. You can't just go chicken. You gotta start with an egg and grow a chicken. And then people say, oh, well, where did the egg come from? From a chicken, you idiot. Allora, è qui con noi per parlare di questo assurdo paradosso, assurdo luogo comune di questa assurda puntata. Sì. Uno scienziato, un astrofisico, si chiama Federico Nati. Ciao Federico. Ciao a tutti. Ciao, benvenuto. Benvenuto off topic. Allora, Federico è docente all'Università Bicocca. Esatto. Insegni cosmologia. Sì. La cosa importante è che ha anche una forte collaborazione con l'Università della Pennsylvania, se non sbaglio. Sì, UPenn. La cosiddetta UPenn. E sei appena tornato dal Polo Sud. Sì, dall'Antartide. Cioè, dall'Antartide. Da un paio d'ore. No, qua, appena... sì. Sì, sei arrivato così in camicia dritto. Esatto. E quindi dipaniamo subito il dubbio: è nato prima l'uovo o la gallina, secondo te? Ma lo hai già detto, è nato prima l'uovo. Diciamo, dal punto di vista della scienza, io poi non sono un biologo, naturalmente. Certo. Quindi, però è molto interessante in realtà l'aggancio con semplicemente il concetto di causa-effetto. No? Anche diciamo, citavate Aristotele, sì, eccetera. Però, diciamo, mette in evidenza la relazione di causa-effetto, cosa è stata causa di quale effetto e così via. E andando a ritroso nel tempo, naturalmente questo mette immediatamente in luce il problema universale di diciamo della domanda universale: da dove veniamo, come è fatto l'universo, quanto, che età ha, come è nato, no? Cioè, perché tu spieghiamolo ai nostri ascoltatori, tu con dei telescopi, delle strumentazioni particolarmente delicate di cui parleremo più avanti, scruti da parti diciamo inaccessibili della Terra, quindi il Cile su altopiani desertici, l'Antartide, scruti lo spazio sopra di noi. Esattamente, perché queste domande possono esistere probabilmente da sempre, però quello che facciamo oggi è cercare di rispondere con degli esperimenti fisici, di astrofisica, con degli strumenti, cioè con delle cose che reagiscono alla radiazione che arriva dal cosmo. Uh-huh. Arriva della luce da regioni molto distanti. Parliamo di distanze? Dipende cosa vogliamo osservare. Nel caso della cosmologia andiamo a vedere le regioni più distanti che si possono osservare, e la luce che arriva da queste regioni ha viaggiato per probabilmente quasi 14 miliardi di anni. Quindi noi quello che vediamo adesso in realtà è lo stato di quella parte dell'universo verso 14 milioni di anni fa. Miliardi di anni fa. Per capirlo pensiamo un attimo al Sole. Il Sole noi lo guardiamo in alto nel cielo, però in realtà la luce del Sole ha raggiunto la Terra in 8 minuti, cioè ha impiegato 8 minuti per raggiungere. Cioè un delay il Sole sostanzialmente. Esattamente, un tutto ritardo. Quello che vediamo lo vediamo con un certo ritardo. Più è distante, più lo vediamo con un ritardo maggiore. Quindi Longoni che arriva sempre in ritardo in trasmissione è come se lui fosse già... Cioè in realtà lui è già qui, dal però Sole lui per arrivare. Capito? Sì, anche te che hai dischiuso un uovo un'ora prima, effettivamente. Io perché sono avanti. No, tu sei sempre indietro, Beppe. Quindi tu sei sostanzialmente sei un archeologo dello spazio. Esatto, i cosmologi, ma in generale gli astrofisici, fanno una sorta di archeologia, una sorta di radiografia del cosmo, e più guardano lontano nello spazio, più guardano lontano nel tempo. Io faccio un mestiere che è in realtà molto, tra virgolette, terra-terra. Cioè noi costruiamo in laboratorio degli esperimenti, degli strumenti elettronici o anche più complicati, meccanici, ottici, criogenici, eccetera. Li mettiamo assieme, e dato che l'atmosfera terrestre interferisce con le nostre misure, proprio perché si interpone tra noi e il cosmo, noi dobbiamo cercare di uscire o di averne il meno possibile sopra la testa. Quindi per questo andiamo nel deserto di Atacama in Cile, che è molto alto e molto secco. Uh-huh. O addirittura, come nella missione in cui parliamo di più di 5000 metri, io ho lavorato a 5200 metri, che non è facilissimo. Si respira un po' pochino, si respira male. Bisogna avere la bombola di ossigeno, fa molto freddo, c'è molto vento, quindi è veramente una condizione estrema. Forse è più difficile lì che in Antartide addirittura, perché in Antartide eravamo a livello del mare, eravamo ben attrezzati, eccetera. Invece lì è stata una condizione un pochino più avventurosa. Tra l'altro tu, scusami, hai vissuto mesi in Cile a 5200 con la compagnia solo di un'altra persona. Esatto, quasi sempre in compagnia di un'altra persona o due persone a seconda dei casi. Mi immagino un isolamento assoluto. E come si vive in quelle condizioni, le routine ogni giorno, parlare sempre con la stessa persona? Cioè, aiutiamo i coinquilini d'Italia, quindi, no? Esatto. Come si fa a vivere in... È molto difficile. Infatti questo è un argomento in genere che si racconta poco, degli esperimenti scientifici, che alla fine sono persone che le fanno le cose, no? Quindi come una squadra di calcio, eccetera, ci sono delle interazioni, delle dinamiche e anche difficili tra persone. E tu hai in mano il mio libro, quindi lo cito. Esatto, adesso, infatti, stavo per citarlo. L'esperienza del cielo, diario di un astrofisico, Federico Nati, racconti proprio quello che ci stai la dicendo. La nave di Teseo. Ed è tra l'altro anche un libro molto bello, molto appassionante. Sì, molto bello. Sì, grazie. È un libro che sì, fa alcuni passaggi un po' più divulgativi in cui spiego la scienza che faccio, ma in realtà è un libro che racconta l'aspetto umano della scienza. È proprio quello che mi stai chiedendo. Per esempio, in Cile eravamo in una o due persone estremamente con dei caratteri particolari. Io stesso ho un carattere probabilmente particolare. Beh, sei di Roma e per forza sei particolare. Vabbè, scusa, scusa, come sarebbero i romani? Ma non lo so, cacciaroni ma simpatici. Anche questo è un luogo comune. Certo. Infatti lui è pacatissimo. No, cioè, un'altra trasmissione la vorrei fare proprio su questo, sui milanesi e i romani. Ma facciamola adesso, c'è tempo. Vabbè, no, insomma, scherzo. Però insomma, sei mai finito a botte con il tuo compagno? No. A botte no, però ci siamo andati molto vicini. Ma per cosa? Per i piatti non lavati, tipo? No, per cosa? Guarda, intanto eravamo... Tu devi immaginare, a 5200 metri, una stradina sterrata che si inerpica sulla montagna e un pick-up, un 4x4, sì, con cui arrivavamo dal paesino, che è un piccolo villaggio di case di fango che si trova a un'ora di macchina. E una di queste persone con cui stavo a un certo punto sparisce, se ne va, proprio, cioè non avverte, non senza avvisa, dire niente, senza dire assolutamente nulla. Ricompare. Vado a prendere le sigarette, no? Ho visto una zona di funghi, ci sono dei porcini e no, va. No, e no, va, no, sparisce per alcune ore, per diverse ore, quindi intanto lasciandoci in una condizione di difficoltà oggettiva, cioè se si fosse presentato un problema, se ci fossimo fatti male, eccetera. Certo, non c'era più il mezzo per andarsene. No, era impossibile andarsene. Eravamo isolati sul picco di un vulcano, tra l'altro, perché quello è un vulcano alto 5200. Attivo? Potenzialmente attivo, in questo momento no. Okay. Serpenti volanti velenosi c'erano, no? No, però questa persona in realtà era nota per fare queste strane escursioni, sì, perché eravamo a pochi chilometri dal confine con la Bolivia. Il confine tra il Cile e la Bolivia è minato per, come dire, per scoraggiare i trafficanti di droga. E lui probabilmente, insomma, arrotondava, facendo il corriere. Sì, sì, no, ma come? Quindi le spedizioni italiane fanno in giro con i corrieri. La UPenn era consapevole di questa cosa? Ma guarda, sono quelle cose che uno sa, però, è meglio, insomma, non sapere. Meglio non sapere, esatto. Cioè, sono situazioni difficili. Per questo dicevo, insomma, l'Antartide da questo punto di vista è molto più tranquillo. C'è molta italianità in tutto questo. Per ma te tutto è stato... il mondo è paese. Ecco, facciamo un'altra trasmissione anche tutto su tutto il mondo è paese. Vedi che è pieno di luoghi comuni. Esatto. Allora, Federico, noi ci siamo interrogati oggi, siccome facciamo sempre fare qualcosa ai nostri ospiti. Tu scruti l'universo. La domanda che ci siamo sempre fatti è: esiste un'altra forma di vita? Intanto ti chiedo questo: se è possibile che esista qualcun altro oltre a noi? Allora, questa è la classica domanda che si fa all'astrofisico medio. Certo, da uomo medio. Esatto, e io rispondo da astrofisico medio, sì. Nel senso che questa è ormai una cosa abbastanza appurata. Cioè, noi sappiamo che l'universo è enorme e che è pieno di galassie, di stelle, di pianeti come il nostro. Quindi è molto probabile che esistano altre forme di vita. Non sappiamo se ci saranno queste forme di vita intelligenti in futuro che interagiscono con noi. È molto improbabile che però questo avvenga, perché le distanze, quella cosa quello che di diciamo, cui prima esattamente esatto, quello di cui, cioè, paradossalmente prima, potrebbe esserci un alieno che ci sta guardando per la questione degli anni luci di distanza mentre si sta formando il nostro universo, perché gli arriva adesso questa informazione. Esatto, ma tu considera che i primi messaggi radio che abbiamo lanciato dalla Terra 100 anni fa, cosa del genere, questi messaggi radio hanno viaggiato attraverso il cosmo. Ora, tra l'altro, si sono anche molto indeboliti a mano che si sono allontani dalla Terra. Però, semplicemente per un fatto di tempo e di distanze, sono a malapena. Scusa, ma questi segnali come sono? Perché io, ovviamente, sono, essendo un uomo medio, mi immagino uno che fa. No, fuori nel, non è però quello. Non credo. No, la radio. Allora, anzi, quando... fallo più lontano. Bello. Bello. Quello che hai appena emesso è un suono, no? Sì. È un suono che ha bisogno dell'aria per trasmettersi. Però gli ascoltatori che ci sentono adesso in realtà ci stanno sentendo non perché il nostro suono ha attraversato l'aria, ma perché c'è una radiazione elettromagnetica, cioè la luce, uh-huh, in questo caso luce radio, uh-huh, che attraversa l'etere e con delle antenne si possono captare. Quindi questa è la luce o radiazione di cui stiamo parlando, che anche in assenza di aria può viaggiare attraverso il cosmo. Sì, esatto. Quello che ti dicevo prima, ci puoi per favore disegnare come nella tua mente è un alieno. Perché insomma sei una persona che forse riesce a darci questa immagine. Noi abbiamo tutti in testa E.T. Altri esempi di alieni che sono? Non lo so, ma che ne so. E che ne so io? No, Roger di Alien di... Alien stesso. Ecco, un astrofisico, come se lo immagina un alieno? Mi avete messo in enorme difficoltà. Lo so, perché non saprei disegnare una mazza, immagino. Comunque, intanto ascoltatori, c'è una penna blu in mano. Sì. Farò quello che spero un giorno si possa osservare da qualche parte. Perché lo potete vedere anche sul nostro canale YouTube. Una linea, sembra un naso. Questo è un naso? Cos'è? Questa... Vabbè. Vi prego, questo è il DNA. Ah, è bellissimo. Sta disegnando il DNA. Sta disegnando il DNA. Esatto. Gli alieni hanno il DNA. A me basterebbe, insomma, che qualcuno su Marte trovasse questo. Trovasse il DNA. Che è la base di tutto. Sarebbe già un punto di partenza. Sei proprio un astrofisico. Grazie. Arrivano gli alieni a cavallo di un oggetto volante. Sono atterrati non molto distante dal frantoio della rina. Arrivano gli alieni, hanno staccato i cavi del televisore per attirare l'attenzione. Una mossa un poco disperata, devo dire. Allora, Alberto Grezzani, detto il Grezza, ciao, buongiorno, buonasera. Buongiorno. Allora, tu sei fumettista, sei uno stand-up comedian, collabori con Kotyomkin. Come te lo immagini un alieno? Immagino più di un semplice DNA. Ma io più che altro ho la speranza del famoso titolo di un film che è Donne ammazzoni sulla luna, ma non credo sia così. Diciamo che ho molto più ottimismo rispetto al DNA dell'astrofisico. Scusa, che film però... è Donne ammazzoni sulla luna, Alberto? Sì, esatto, un film VM, diciamo. È un cult della comicità, ragazzi. Aspetta, non mi cadete sui fondamentali. Recupero subito e cerco Google. Immagino ci siano delle signorine semidisnude. Sì, era una cosa abbastanza trash, però insomma era divertente. Niente di particolarmente pruriginoso come potete immaginare. Tipo una cosa Ledwig Fenech, pensavo. È un film dell'87 di John Landis. Ah, è un film corale girato da John Landis, Joe Dante, Peter Orton, eccetera, eccetera. Fate i compiti a casa, quindi. No, abbiamo invitato un fumettista perché mentre stavamo ragionando sulla puntata ho detto, secondo me, ragazzi, ho tirato fuori l'off topic che c'è in noi, la cosa più simile a Dio, perché stiamo parlando di questo sostanzialmente, creazione, non creazione, chi ci ha creato. Cosa c'entra un fumettista? La cosa più vicina a Dio secondo me è un fumettista, ragazzi. Ma perché? Perché crea un immaginario collettivo, crea un universo, crea dei personaggi, crea una storia tutta sua. Cioè, scusami, stai dicendo che Dio è un fumettista? Potrebbe essere. Alberto, bestemmio se dico una cosa di questo genere? Qualcuno potrebbe dire di sì, poi io conosco da anni Riccardo, devo dire che da Verona, e devo dire che a Milano ho trovato gli stupefacenti migliori, probabilmente più a buon mercato, ma che sia di io non prendo responsabilità sulla mia divinità, quindi non mi sbilancio. Che effettivamente un fumettista crei mondi, crei personaggi, sì, mi viene sempre in mente un personaggio come Leo Ortolani, l'autore di Ratman. Che da un'ideuzza che era una mini parodia di Batman ha creato effettivamente un personaggio, un mondo, un universo eccezionale. Sta parlando anche di uno dei migliori autori italiani. Esatto. Poi io per conto mio non mi sbilancio su altri. Soprattutto perché il fumettista disegnando su carta sollecita innanzitutto l'occhio dello spettatore, del fruitore, e quindi l'occhio, sappiamo, è forse il senso più acceso, del nostro corpo. Beh, un astrofisico lo utilizza per continuare a scrutare anche il cielo, per vedere se le condizioni sono ottimali, ma non solo, tra l'altro. Cioè, spiare i fumetti del vicino. Esatto, ma ci sono i fumetti in Antartide? Cioè, ve lo portavate via i fumetti? Assolutamente sì. In genere è tutta roba digitale, perché uno non può viaggiare con tanta carta. Tu sei anche in digitale, Alberto? Ah, io sono presente su Instagram, ovviamente con le vignette di Kotyomkin. Fumettisticamente ho produzione abbastanza scarsa, nel senso che non ho mai prodotto effettivamente un fumetto. Disegno molto, quello sì. Ma tra l'altro, scusa, ultimamente su Kotyomkin ti sei dato molto ai personaggi di Gesù, sua mamma, suo padre. A parlare di divinità. Sì. Esatto. Come mai? Ma perché allora io, avendo un passato da credente abbastanza fervido, ho scuole dalle suore, quindi sono molto preparato sull'argomento, anche se il mio studio teologico si è fermato alla terza media, però sono personaggi che mi piacciono, perché tutto sommato se li prendi nella loro idea, nel loro messaggio di base, sono positivi. Poi è chiaro, se ogni tanto questi personaggi vengono utilizzati anche da altri, senza fare nomi, per fare propaganda, per essere buttati in mezzo ad altre cose, si crea quello che per il comico è la base, cioè quell'effetto contrasto. Certo, che ti permette poi di costruire una striscia o un pezzo. Esatto, tuo. Allora da lì dici, cavolo, ma effettivamente, ma la Madonna, adesso senza... Sì. Stai piano con le parole. No, ma nel senso di Maria, sì. Come avrebbe reagito a questa cosa? Come la prenderebbe questo tipo di messaggio? E tu te lo immagini. Crei il personaggio, io mi immagino questa donna, tra l'altro, con tutti i suoi problemi, sono millenni che le addossano cose, apparizioni, sarà anche un po' stressata sta povera donna, esatto, dopo aver dato alla luce il salvatore dell'umanità, che già forse è uno dei responsabilità. Forse uno dei più conosciuti. Senti, ma a proposito del paradosso di oggi, è nato prima l'uovo o la gallina, secondo te? Secondo me è una domanda che non dovresti fare a un fumettista perché? Come no? Ma perché comunque, essendo gente che fa la fame, gli mostri un uovo e una gallina e subito incomincia a salivare, non è che... non pensi... Senti, ma cavolo, del cibo, no. Ti diamo un compito, per oggi pomeriggio ci mandi una vignetta con l'uovo, oddio, e la gallina? Ce la prepari? Vabbè, dai. Beh, ma che c'hai da fare? Sei un artista, non farai nulla come tutti gli artisti, luoghi comuni. Qualsiasi cosa che ti possa ispirare. No. Essendo io un artista e facendo il comico, il disegnatore, ho un altro lavoro per vivere e quindi... Quindi quando ti chiedono, io faccio il comico, sì, ma di lavoro cosa fai? Tu hai un'altra risposta, lavora in banca. Per motivi puramente nutrizionali ho un altro lavoro. Hai le galline? Lavoro nelle scuole, insegno ai bambini, quindi... Un lavoro nobile. Nobile, esatto. È una sua responsabilità anche lì, purtroppo. Senti Alberto, ma se tu dovessi andare in Antartide, che cosa ti porteresti dietro? Un giaccone molto pesante. Ok, va bene, forse un buon consiglio. Ma così è, la prima cosa che mi è venuta. È giusto come consiglio. Ma in realtà te lo danno appena arrivi in Nuova Zelanda, perché si passa dalla Nuova Zelanda, ti forniscono tutta l'attrezzatura. Quello famoso rosso? Esatto. Cioè te lo regalano anche o no? Se te lo regalano, se te lo metti in valigia andando via senza dire niente a nessuno. Okay. Poi devi se fai l'italiano, insomma. Se fai l'italiano. Esatto, però no. No, vabbè, dai Federico, quanti ne hai a casa? Uno. Uno l'hai preso. Va bene, allora Alberto, grazie mille. Ti regaleremo per il compleanno un giaccone di quelli rossi che si portano in Antartide, allora. Guarda, ne avrò bisogno, non lo so. Grazie. Ciao. Ciao. Ugly girls and boys, I put you on my list to make you clap your chest. It's a man, I just an ego trip, but only one can win, and soon you stay there. Allora Federico, vorrei che tu spiegassi ai nostri ascoltatori come funziona lo smaltimento delle feci in Antartide. Oh, lo sapevo. Non dovevo, raccontarla questa cosa. In realtà è molto interessante perché si lega anche a una questione di responsabilità ambientale che è molto seria. Sì, perché... sì, in realtà hai ragione, cioè in realtà dietro c'è un trattato, si chiama Trattato Antartico, che è molto importante, che è stato è un accordo che fu fatto negli anni 50 e poi successivamente ci sono uniti tanti paesi, inclusa l'Italia, in cui si dice che l'Antartide deve essere innanzitutto utilizzato soltanto per scopi pacifici, niente di belligerante, e non si può sfruttare a livello di risorse minerarie, eccetera. Perché non è di nessuno, giusto? Non è di nessuno, non si può piantare una bandierina e dire questo è una porzione italiana, americana, neozelandese o cinese, e non si possono lasciare tracce umane, non si può inquinare, incluse appunto, come dicevi tu, le feci. E dove la fate? Dove la portate, la domanda vera. Ma no, dove la fanno? Cioè, prima vanno trattate o portate via, o se si può anche, diciamo, mandarle nell'oceano, quello è consentito. Cioè effettivamente io lavoravo su uno strato di ghiaccio spesso 400 metri sotto al quale c'è l'oceano. Uh-huh. E quindi se si può scavare, come si può fare, un foro lungo 400 metri attraverso il ghiaccio e attaccarci la tazza, effettivamente le feci possono andare direttamente nell'oceano, quello è consentito. Però si può fare la cacca nell'oceano dall'Antartide. Però il problema è che questo foro va scavato, e quando noi arriviamo in Antartide spesso ancora non è stato realizzato, quindi dobbiamo arrangiarci in altra maniera. L'altra maniera è semplicemente una specie di cabina telefonica di legno nella quale si entra, si alza questa specie di tavoletta di legno e dentro c'è semplicemente un secchio. Ok. Un secchio al quale accedono, fai conto, non so, una ventina di persone, quindi insomma, se uno va alle 4 del pomeriggio, esatto. Che il primo chi ci segue su YouTube può vedere l'immagine adesso di come è fatto un bagno. Toglimi una curiosità, ognuno di noi è un po' un control freak, soprattutto Riccardo è uno che se c'ha la bottiglietta spostata in un certo modo deve risistemare. Mi ha tolto i peli dalla camicia poco fa. Quello l'ha fatto per toccarti. Però vabbè, andiamo avanti. Qual è una cosa che ti manda i matti, soprattutto che ti mandava i matti in Antartide, forse qualche tuo collega, non so, lasciava il calzino bucato per terra. Ketchup. Allora, intanto sì, io sono particolarmente ordinato sul lavoro e diciamo gli americani invece sono estremamente cacciaroni, come dire, a Roma. Ti piacerebbe definirti un romano atipico? Ma non lo so, questo è un luogo comune. Cioè, tu considera, hai visto Roma quanto è complicata, no? Sì, se fossimo veramente così casinisti come ci pensate, esploderebbe quella città. Quella città è un miracolo della natura. È vero. Quindi veramente io non penso. Però il vero problema in Antartide, questo lo devo dire, è il cibo americano. È quello che ti mandava i matti? La carbonara americana è stata una cosa. Scusa, ma è più facile per chi, così giusto per trovare un po', è più facile scoprire le origini dell'universo prendendo una metro a Roma? Cos'è la metro? Perfetto, grazie. E con questo direi di chiudere e di ringraziare Federico Nati. Grazie Federico. Allora, noi abbiamo finito questa puntata. È nato prima l'uovo o la gallina? Abbiamo dato una risposta. Il dinosauro. Esatto. È nato prima che tra l'altro dinosauro. Si è schiuso il tuo si dinosauro. Si è schiuso, ed è potete vedere, è un triceratopo. Possiamo bellissimo. Farlo vedere, esatto. E noi ci diamo appuntamento come sempre la prossima settimana. Vi ricordiamo che siamo in onda ogni sabato sera alle 22:30 e domenica alle 14:00. E poi su YouTube, ragazzi, certo. Su YouTube cercate Off Topic, trovate il nostro canale, vedete tutte le puntate e iscrivetevi. E vi ricordiamo in chiusura che a fine marzo torneremo ai Teatro Filodrammatici con 3 serate di Off Topic, sì, a Milano con la radio che si vede, e faremo 3 puntate speciali del nostro programma. 27, 28, 29 marzo, 3 titoli diversi, 6, 7, 8, 10 ospiti diversi, 10.000 proprio, tantissimi. Vabbè, tipo okay, per esempio lui, poi basta, quell'altro, basta. Quello che fa tutto. Ciao, ciao, grazie Andrea Roccobella, ciao. Off Topic, fuori dai luoghi comuni, produzione a cura di Andrea Roccobella.